un attimo di ritardo per fare la mancia, per dire che non si possono fare le cose, a nome dell'Istituto del Mezzo Martino, che è uno dei autori insieme alla stazione internazionale del Mezzo Martino qui, rappresentata dall'Armino per la Terra Martino, e si è poi mi chiedo e richiedo che cosa ci sta azioni pubbliche, come sta ragione lo Stato, che si occupano di beni e servizi culturali, hanno linee di intervento più o meno codificate per gli anniversari di personaggi illustri. Sappiate addirittura che il Ministero per i beni e le attività culturali ha una normativa DOC per cui si creano comitati nazionali per la celebrazione di personaggi illustri. Ecco allora che cosa ci sta a fare un attimino con quest'altro personaggi illustri. Questo ci dice però, nella Europa e nella cultura, che le istituzioni pubbliche hanno un senso comune, forse l'hanno sempre avuto, però sicuramente lo manifestano con maggiore evidenza e vitalità ora, hanno un senso comune sul riconoscimento degli antenati. Cioè, in qualche modo il riconoscimento degli antenati è entrato nel senso comune, nella norma delle istituzioni pubbliche. Questo, a quanto ho ascoltato prima da Ivan, è una ricorrenza che una volta si diceva nasceva dal basso, non c'è un comitato nazionale. Non so se Napoli, da appunto la città natale, faccia qualcosa, ma anche questo credo aggiunga al nostro quadro conoscitivo un altro elemento. Riconoscimento degli antenati, trattandosi di un attimo, credo che si possa interpretare la parola antenato, almeno con i valori che ha in alcune comunità africane, per cui l'antenato non è la persona scomparsa, ma il personaggio appunto illustre che ha da dire qualcosa alla comunità. Allora, qual è, e ripeto sempre, non da esperto, ma da chi si occupa professionalmente di organizzazione della cultura, dal punto di vista da osservatore privilegiato, insomma, ma quello della regione toscana, qual è allora la vitalità di De Martino e soprattutto delle questioni poste da suoi studenti? Io vi propongo tre punti, tre osservazioni. Il focus di De Martino è senza dubbio il movimento operario e contadino. Ecco, nella nostra regione si è detto più povere, ma questa farebbe un toglie l'abilità dell'esistenza con cui si riprende, che per quanto riguarda l'iniziativa di studio, di ricerca, di documentazione, di valorizzazione e soprattutto per quanto riguarda i musei, questo complesso di strumenti si è concentrato esclusivamente sui cittadini. Il movimento operario, pure in una regione come la Toscana, dove ci sono tradizioni significative, ma non solo tradizioni significative, dove ci sono smorti tra due uomini così forti, è in pratica a sé. Mi piace citare che Fabio Zei, che si interroga perché le comunità di lavoro operario coniamo nelle piccole imprese toscane degli anni 70, appare meno interessante che documentare il lavoro contadino in un potere degli anni 50. Io credo che questo sia l'elemento su cui dovremmo riflettere. Deve venire fuori come di solito il progetto comune legato alle Riccardo Manciana, in parte a quello del Mastino meridionalista, il marxista sui generis, il quadro degli studi si frantuma in in Toscana abbiamo circa 70 musei etno-antropologici, non c'è uno che documenti, diciamo, il movimento che questo deve essere un dato sicuro. Il secondo punto invece è quello che io titolerei il quadro toscano e i bravi solitari, oppure anche i buoni samaritani. Il quadro toscano, diciamo il quadro toscano soprattutto dagli anni 70, sicuramente si è arricchito di nuovi soggetti, pensiamo al giornalismo di Toscani, pensiamo di culturali, alle istituzioni, alla riduzione dei musei, che giustamente gli antropologi considerano un movimento di democrazia. Ai singoli ricercatori, ecco perché cosa è successo. Questo quadro si è spesso atomizzato. Lo scollegamento tra ricerca e quello che dovrebbe essere il campo di restituzione si è fatto più volte e ha prodotto anche qualche disastro. Le tappe, sicuramente la mutazione dell'università, un protagonismo mal interpretato di questi soggetti, una nuova cultura, diciamo, economicista, sicuramente, perché c'è una funzione culturale. Ecco, allora, in questo quadro, certo non si sa, ma si distinguono per quello che propongo come i solitari, soprattutto in Toscana ci sono delle esperienze forti, esperienze più significative per quello che non si sa prima, l'associazione presieduta da Pietro Demeno, Pilas, ecco, sempre in difficoltà Pietro Sciolle da Roma, iniziative antropologiche per la storia orale toscana, ha fatto un'operazione, forse ancora non per colpa sua sicuramente, ma ancora in silenzio, ma di grande significato. Ha proposto al Consiglio regionale del Parlamento toscano, ha posto al Parlamento toscano questo problema, la mezzadrina, 7 secoli di presenza in Toscana, l'eredità che ci ha lasciato nel paesaggio, e non solo nel paesaggio, nella memoria, nella cultura, che possa fare l'ente qualche maggiore rappresentanza istituzionale per promuovere la conoscenza, valorizzare la memoria e, diciamo, organizzare la produzione del patrimonio culturale dell'Italia. Ecco, questa è stata un'iniziativa sicuramente significativa. Proprio uno dei frutti di questa iniziativa è che domani alla Fortezza dal Basso si nasce la mostra Ingegni Quotidiani, estetiche pratiche del Rottami, in cui 20 musei etnografici propongono pezzi della loro collezione sotto punti di vista che vanno, diciamo, dal contenuto umano degli stessi oggetti agli aspetti che loro oggi fanno, quindi più creativi, fino alla continuità, diciamo, con una sensibilità di arte contemporanea. Quindi, sotto questo punto di vista, il quadro è animato da quelli che io chiamo bravi solitari o montanari. In fondo, una caratteristica mi sembra un po' della nostra società, che nelle istituzioni sempre più deboli, lo scollegamento delle associazioni si regge sulle individualità. Infine l'ultimo considerazione che voglio fare è quella del rapporto, che rapporto ci può stare dal nostro folklore progressivo con la nuova cultura di massa e il moltiplicarsi allo stesso tempo di distinguere di cultura nella nostra società. Un temone potremmo discutere, non io sicuramente, ma comunque fino a stasera. Allora io vi propongo, perché mi sembra una risposta interessante, la prospettiva dei musei. La prospettiva dei musei è un indicatore interessante per capire sensibilità, orientamenti, visioni della società. Sta per uscire in Italia, un libro di Jean Pierre, La crisi del museo, dove dà una risposta reazionaria a un problema vero, reale. Lo fa con l'intelligenza, ovviamente, a Jean-Pierre, però è una risposta relazionaria che, vista questa condizione, potrebbe avere anche successo, non dico che non abbia successo. Jean-Pierre dice, basta con il bel culturalismo. C'è la cultura, non ci sono le reti culturali, le attività culturali, la promozione culturale, tutti i nostri guai derivano da quello che lui chiama il bel culturalismo. Devo dire su questo poi l'originalità del pensiero di Jean-Pierre, in Italia l'aveva già detta alla fine degli anni 60 Urbani, sotto Urbani, scusate, non il ministro, mi dimentico sempre il nome, ma avete capito, l'aveva già detto Urbani, ma dice i problemi sono iniziati quando abbiamo cominciato a chiamare l'opera d'arte bene culturale. Con questa nuova somatizzazione, diciamo, è iniziato dal punto di vista. Ma quindi non c'è una grande opinione. Ma qual è il discorso che faccia anch'io? Di fronte al museo che muta, di fronte al museo che qualcuno vuole, almeno prima della nostra regione, vuole dell'incivilimento, ovviamente io non accetto questa protezione, però comunque è una protettiva significativa di agenti di mutazione, informazione, ecco, di fronte al museo che ha questa mutazione genetica, dove la componente spettacolare è sempre più forte. Jean-Claire in Francia, ad esempio, il Louvre, con questa operazione che ha dato, dove il Louvre sta diventando una griffe che si vende, si esporta, così succede l'ermitaggio che diventa un diritto che si esporta. E questa, diciamo, cultura del museo spettacolare, del museo spettacolo, del museo che fa i tassi, del museo che diventa, diciamo, un bilancio, tutto un bilancio economico, guardate che evasiva, perché i piccoli musei poi guardano a questo momento. Sapete che per la prima volta nella storia dei musei, tranne quello che è il codice deontologico dei musei, si comincia a dare le opere d'arte a pagamento, a prestito, cioè si presta a pagamento. Lo stravolgimento è un bello stravolgimento. Allora Jean-Claire di fronte a questa prospettiva dice basta con il perculturalismo, il musico, punto e basta. Ovviamente la risposta reazionale, la risposta reazionale che non tiene appunto conto dei dislivelli di cultura che esistono nella nostra società. Ecco, allora tra questa proposta di Jean-Claire, però poi dopo la proposta dei musei che inseguono questa, diciamo, deriva spettacolare. Io ho parlato da lui di questo giornalista, questi saggi, questo raccolta di saggi che è uscita in America sul museo oggi, dove c'è un saggio interessante che dice come ormai il consumo culturale sia, chiamano ecco un'experience, cioè sia diventato un'esperienza di capitalizzazione personale, ma tutto fatto in misura di un metodo di economia, dove in qualche modo si introietta, il singolo introietta, diciamo, parametri economici, anche in modo non esplicito, senza saperlo, ormai diventa questo consumo. Ecco, allora, io lo chiedo a voi, se adesso, soprattutto se questa domanda ha un senso, a volte sono più domande che risposte, tutto questo, il folklore progressivo, dove sta? Può dare una risposta? Quali sono, diciamo, le prospettive? Io vi ringrazio, però, non senza aver sinceramente fatto, senza fare apprezzamenti all'Istituto Demartino di Sesto e all'Associazione Internazionale del Maestro di Martino per darci questa occasione di riflessione sul personaggio che tutti noi amiamo. Un ultimo ricordo, quest'anno è anche il cinquantenario del premio di Viareggio, mi sembra, che peccato nessuno se ne sia ricordato, timidamente avevo provato a dire il premio di Viareggio, ma non ho la potenza per essere ascoltato, di Martino nel 58 vinse il premio di Viareggio. Grazie. Allora, diciamo una suggestione, tocca alla professoressa Carla Gabriele, che è presidente della Associazione Internazionale del Maestro di Martino. Intanto io ringrazio gli organizzatori e tutti voi. L'Associazione del Martino finalmente si organizza internazionale, il Maestro del Martino finalmente riprenderà discorsi. Allora, i programmi, uno programma è già stato ricordato, sarà a Lecce alla fine di questo mese, il 29-30, che si parlerà di etnografia e di storia. E poi alla fine di gennaio finalmente riusciremo a Roma a organizzare un seminario di studio che vorremmo creare, tenere come seminario aperto e chiamare lavori in corso, nel senso che l'opera di Martino appunto ha suscitato una serie di domande e di contestazioni e che vale la pena di riprendere per fare il punto su domande e contestazioni ancora aperte. Io personalmente non so più riflettere sul contemporaneo, mi ci trovo spiazzata. Lo stesso discorso sui musei mi turba profondamente quando lo sento in questo modo. Ho l'impressione che esista uno scollamento forte tra movimenti nascenti, che sono appunto i movimenti degli studenti di questi giorni, il movimento reale che è sempre più potete vedere, e quadro politico che di questi movimenti cent'anni fa si sarebbe detto avrebbe dovuto avere l'egemonia. In questo diciamo disagio contemporaneo lo studio degli archivi fa molto bene, ma anche sazia. Fa bene perché si vedono anche momenti in cui c'era del fervore e si tentavano questi rapporti tra movimento e istituzioni, chiamiamoli quadri politici di vario genere. Uno di questi momenti è quello di cui mi sto attualmente occupando, ricercando tra le vecchie carte dell'archivio del Latino. Carte che sono osservate dalla sua compagna Vittorio De Palma, che qui ringraziamo, e che però sono anche state tutte, perlomeno per la parte scientifica, informatizzate e accessibili agli studiosi, ecco un modo per fare dei musei di questo genere, viventi, accessibili agli studiosi, li abbiamo messi a disposizione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, dove abbiamo portato anche parte dei libri della biblioteca del Latino, che cercheremo di ricomporre in modo che si possa istituire lì un punto di lavoro, non dico di aggregazione, ma almeno di lavoro, studio e ricerca. E tra queste carte ho appena studiato e finito di consegnare all'editore per un lavoro che l'altro non ancora del tutto finito, un dossier che la stessa mano di la stessa grafia di Martino venne intitolato Lettere dei contadini tucani. Quindi si parla un'altra volta di contadini e non di operai, ma poi agli operai torneremo. Quanto tempo abbiamo? Quanto d'ora? Sì. Che vedi? Si tratta di un dossier che contiene tanti piccoli dossier intitolati Matera, Pisticci, Stigliano, Tursi, Montalbano, Grassano. Sono dei fogli redatti da mano diversi, saranno circa un centinaio, con grafia in tutta evidenza, sono mani non conte che hanno scritto questi fogli, sono testimonianze brevi di poche righe o di una pagina, sono scritti su carte qualche volta ufficializzate col timbro CGL di Matera e sembra facciano riferimento a una inchiesta sulle condizioni di vita dei salariati fissi che operavano nel Materano nell'immediato dopoguerra. L'inchiesta fu fatta nell'agosto del 1951. Non sono in effetti lettere, ma sono delle dichiarazioni in cui gli estensori dicono: faccio presente, protesto la mia condizione, dichiaro che questo protesto è già molto, molto bello e significativo. Sono fogli scritti su carte assolutamente immediate, per esempio invece fortificata non ha aria dietro le righe delle tessere non ha aria, oppure vertici crostilati della camera del lavoro di Matera, da cui per esempio leggiamo: noi cittadini e lavoratori di Matera, mentre noi siamo per gli arrivati arresti di dirigenti e lavoratori noto nel metabottino, quindi il riferimento è chiaro alle note bracciantine di quegli anni, chiediamo, ma gli errori di cosiddetti errori di italiano sono tipici nel trasferirsi dall'oralità alla scrittura. Noi cittadini chiedono l'immediata scarcerazione di essi e invitiamo le autorità a essere neutrali nella lotta e semmai a costringere le parti padronali ad accettare il sacrosanto riserve per richieste dei lavoratori agricoli. Come vi dicevo, siamo nell'estate di 51 ed è appunto la CGL di Matera di quegli anni che affida ad Ernesto Di Martino l'incarico di condurre un'inchiesta sulle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti della zona 51. Da allora questi documenti sono stati conservati nell'archivio di Martino. Si possiede materiale e immateriale di una memoria incarcerata, però sono rimasti inediti. Di Martino non li ha mai elaborati, né la CGL di Matera li ha ulteriormente elaborati. E questo è il colore progressivo, comincia a porci uno dei primi problemi. Certamente questi documenti nascono all'interno di quella stagione del primo dopoguerra che fece emergere il disagio e la protesta dei contadini, le lotte per la terra, le violenze dei proprietari, le repressioni poliziesche. E si scrivono nel quadro di quel bisogno conoscitivo delle condizioni sociali dell'Italia che avrebbe promosso in quegli anni diverse inchieste. Però quello che li rende unici, almeno fino a quanto adesso mi è stato di dire, è che mentre le altre inchieste, di cui se mai avremo accenno, hanno prodotto dei documenti elaborati da, chiamiamoli intellettuali o politici, che stilano poi alla fine la loro relazione e cancellano le fonti scritte o orali su cui hanno lavorato, a differenza di questi documenti presenti nelle grandi inchieste, qui invece abbiamo dei documenti che sono, non sono relazioni consultive, ma rappresentano la voce diretta di persone, contadini, che o direttamente scrivono oppure vanno dal segretario della sezione della CGL e rispondono alle domande o dettano direttamente il loro testo. C'è una figura di intermediario, quindi colui che scrive, non quasi mai, non sempre colui che scrive è la stessa persona che parla. C'è un'intermediazione tra oralità e scrittura, tra il parlare e il sapere in un certo senso politico. Ma è molto interessante vedere comunque, da questo documento, anche la forma finale di chi firma come compaio e saluta, magari dicendo saluto col pugno chiuso, quindi si percepisce già nelle modalità della scrittura il clima forte della tensione che doveva sottendere questo esempio di quello che io chiamo primo esempio di un'inchiesta partecipata. 1951. Sono voci in questa richiesta, quello che si esprime sono voci di sofferenza, di rabbia, di denuncia, ma ci restituiscono insieme il senso forte, che è quello che oggi si è perso, di un'appartenenza etica e politica a una classe che a un'epoca, quindi nel dopoguerra, nel dopoguerra di Otto, diciamo così. E nel libro, così, un paio di esempi, ma scelti un po' a caso, perché poi le sono tante. Salariato, dice il testa, Sigliano, 21 luglio. Inchiesta, pieni di errori di sintassi di grammatica, ma noi li chiamiamo errori, li chiamiamo appunto modalità di procedimento nell'orale e nello scritto, denunciano anche la non totale padronanza della scrittura, ma insieme alla sicura padronanza dei concetti. Inchiesta sulle condizioni di vita, di risparmio di maiuscole e di minuscole, per esempio condizioni di vita del salariato, tutto maiuscolo, del salariato fisso. Io sottoscritto nel maestro Francesco Di Antonio, mi trovo alla dipendenza del signor Del Monte Vincenzo Funichele. Dichiaro le mie condizioni di vita. Primo, salario dell'anno dopo il 28, uguale al denaro 15.000, 2 sale, chilogrammi 12, olio, litri 12, pecore, frango a pascolo, teste 12, di formaggio, lire 20.000, rendita delle 12 pecore, lire 30.000, in rendita di legno 16.000 lire, scarinato 1.600 lire e in tutto va 171.000 lire. Inizio a quello che mi farebbe bisogno, quindi dice quanto guadagna in denaro e in beni. Inizia a dire quanto richiederebbe bisogno. Inizio a quello che mi farebbe bisogno. Oggi mi trovo io e mia moglie, eppure vengo a dire che con due persone tiro una vita rampicosa. Cioè, alla fine, mi trovo anche scalzo e senza una lira da poterla conservarla in caso di malattia. In base al salario sovrascritto, io Massimo sono sacrificato umano di notte e umano di giorno, dove 6 mesi si dorme in un vano mal ridotto e stretto, siamo 7 in famiglia. Dove le famiglie numerose, 10 anni, delle ragazze di 15 e 20 anni, dormono sotto la loro branda, ma l'altra per modo di dire, sono 4 panni incrociati e un paio di centaglia. Qualora i loro figli prendono tutta la taglia che casca dal pagliericcio dei genitori, sulla loro faccia, dove la mattina si alzano, peggio degli animali. Un animale ci ha reso distacco l'uno dall'altro, ma invece noi, proprio i salariati, la sera, quando la notte, diventa un filmo muto. Ebbene, altri 6 mesi si dorme sotto la rete, all'intemperie, di acqua e vento. Addormenta in terra, e poi, quando piove, ci tocca mettere una coperta sulla testa ed aspettare la mattina, se esce il sole, per poterci asciugare. Chiedo, ecco allora l'altra, no? Quindi, dichiarazione dello Stato del Guadagno, perché sono lettere che hanno, diciamo, dichiarazioni che hanno una loro struttura interna, dichiarano il salario, descrivono le condizioni di vita, famiglia, eccetera, eccetera, e chiedo il mio miglioramento, di sollevare le mie condizioni di vita. Anche noi salariati siamo umani e siamo degli elementi che diamo più degli altri il nostro contributo alla nazione, ma purtroppo siamo niente altro che degli schiavi, mannati da questi sfruttatori. il riferimento agli sfruttatori, il riferimento ai vecchi imperialisti che hanno voluto la guerra e si sono dati dopo la guerra all'America per e non favorendo la pace, che hanno fatto lavorare durante la guerra in Costantino Povero, guerra e prigionia, sono molto frequenti in queste lettere, che terminano spesso appunto con una per esempio, lo fa, ecco, una, un classico finale può essere questo: al mio ritorno di prigionia mi trovo nella pessima miseria, ma bensì prima ero in terra straniera, solo prigioniero. Invece oggi sono in casa mia, prigioniero io con tutti i miei componenti. Grazie a questo governo che ha fatto dal 18 aprile a oggi, 18 aprile le elezioni di Torre in questi anni, dal 18 aprile ad oggi, che ci fa morire di fame e che distanzia solo miliardi per la guerra e non per il lavoro. Lettere che terminano talvolta, ma non sempre, con saltando appunto con il pugno chiuso, ci pongono molti problemi circa appunto la partecipazione di queste persone a un'inchiesta e ai rapporti, se dobbiamo parlare di Bernardino, tra questa inchiesta e le sue riflessioni. Di fatto sappiamo che il 2 dicembre 1949 si erano tenute a Matera delle assise che ebbero contiene nella stampa locale e da cui partirono vibranti denunce delle condizioni di vita dei braccianti, di cui è probabile che l'inchiesta vada inquadrata in questo ambito. Però quello che ci colpisce è che De Martino che cosa fa? Le conserva. Rielabora solo cinque brevissime dichiarazioni che non sono storie di vita alla sua pellata, sono dichiarazioni di condizioni di vita, le rielabora e le pubblica poi sul quotidiano di nuove del partito, sul settimanale di nuove, dando loro un rilievo ma inquadrandolo in un discorso più, anche più generale, che si connette ad altre sue richieste, ricerche. Dopo questa ricerca ci furono, in effetti, sarebbe venuta la risposta governativa nella famosa inchiesta sulla miseria, che giunge anche nel paese, in uno di questi paesi visitati da De Martino, Cassano, fa una brevissima ricerca, però non voluta da personaggi, diciamo, ricerca voluta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria in Italia, di cui sappiamo che il lavoro avrebbe dato inizio nel settembre del 52, quindi pochi mesi dopo la ricerca di De Martino a Cassano, e le rilevazioni cominciano lì a novembre. Le indagini sono molto diverse come impianto da quella promossa dalla CGL di Matera Locale. Sono di promozione parlamentare, sono condotti in equipe da diversi studiosi altamente professionalizzati. È un'inchiesta dotata di mezzi economici, capace di formare in loco dei rilevatori e di produrre alla fine due volumi mediante i vari volumi di atti correlati appunto dalle, per quanto riguarda il passato anche la fotografia. Già il latino ha intuito la profonda differenza tra questo tipo, tra questi due tipi di inchiesta. Aveva intuito la diversità dei disegni, ma e si sarebbe anche ingaggiato in una polemica proprio sui diversi modi di fare inchiesta, uno imposto dall'alto e uno dal basso e partecipato. Certamente, come suggerivo il suggerimento scottellariano ci stanno dietro questo tipo di lavoro, ma siamo anche in un clima molto diverso che si iscrive nel quadro delle lotte contadine di quegli anni e nel riconoscersi come appartenenti, poi si direbbe con disprezzo identitari, ecco, cresce appunto qui, quanto questi documenti ci danno, è un'identità forte di sapersi dentro un movimento. Tutto questo si è perso e c'è anche da chiedersi perché. Io non sono storica, ma trovo documenti. Mi chiedo semplicemente cosa ne pensasse di latino e perché non abbia elaborato tutto questo materiale, che è un bellissimo, straordinario materiale, tra poco finalmente lo pubblicheremo anche con le immagini, no, di queste grafie azzoppate, perché non lo utilizzò e perché se lo portò dietro in tutti i suoi traslochi fino a che sono durati per tutta la sua vita. Cercando tra le carte, e qui poi mi fermerò, scopro due lettere, una che mi manda Vittore Fiore da Bari, che è un intellettuale locale, socialista, se non mi ricordo, qualcuno mi correggerà, e una che mi parla di dice, sì, ho letto questa tua cosa su di nuovo, che certo il mezzogiorno, il problema del mezzogiorno avrebbe imparato dei grandissimi e generali problemi internazionali. E il latino gli dice, io sì, sono d'accordo con te, ma quello gli risponde e arriviamo alla mozza di due lettere, evidentemente ci teneva molto a questa lettera, perché ne ha scritte due, una prima mozza e una seconda lettera completa, più precisa, proprio su questo punto in cui non si trova d'accordo con Fiore. E cosa dice? Ciò che contesto è che solo così un'inchiesta, cioè proiettando in questa grande dimensione economica internazionale, un'inchiesta acquista una tradizione collettiva nazionale. E questo solo così quando ci divide. E qui che troverò un pochettino ma me lo leggo. Una proiezione collettiva e nazionale si può aggiungere anche, sarebbe dire soprattutto, considerando il mondo contadino non tanto come vittima e come oggetto di una certa struttura, ma piuttosto come una forza culturale definita in vari rapporti storici con la cultura ismonica. Quindi qui c'è chiaro, c'è dietro Gramsci, il riconoscimento del mondo contadino come forza culturale che in qualche modo è punto primo, quindi non solo politico, non economico, non solo misero piuttosto, ma come dotato di una cultura propria. E comunque immesso in un rapporto di poteri culturali, non solo quindi economici, ma anche culturali. E qui va bene. Giustifica soprattutto, ed è questa la parte che mi ha della politica culturale di Cini è le mattine italiane, la scriveva sul colore progressivo come voi conoscete, aveva fatto delle ricerche, era stato varie volte in media, aveva studiato, era stato con gli operai delle Reggiane che avevano fatto lotte, scioperi, erano stati pensati variamente. Uno dei limiti, però ricordiamoci, siamo nel 1952 qua in questo, quindi 50 anni fa, e anche prima per i più giovani, quasi ritardo veniamo fuori. Allora, uno dei limiti più gravi della politica culturale del PC è che l'alleanza della Sciana, operai del nord, contadini meridionali, è vista su un piano strettamente politico. La vita culturale del mondo contadino, il legame concreto con essa, non forma problema. Naturalmente questo limite si riflette anche sul piano politico, confinando l'alleanza gramsciana a una semplice coesistenza di modi di emancipazione alquanto, come dire, corporativi. Sottolineo corporativi. Oltre il risultato della brigata Sassari ricordata da Gramsci da qualche altro, non mi pare che vi siano stati anche sul piano strettamente politico e bisogna salienti di solidarietà organica tra proletariato del nord e proletariato del sud. In ultima istanza, noi scontiamo ancora le verità del vero socialismo italiano. Gli operai delle Reggiane, pur così avanzate, sono ancora fermi culturalmente in una sorta di nazismo contaminato di positivismo e di illuminismo immediato. E questa situazione non si sana con i convegni intellettuali, allora da molto di moda intellettuali impegnati, non si salva con i problemi intellettuali o con le scintillanti di quali illuminare le pieghe del mezzogiorno con i libri cosiddetti popolari o addirittura con funzionari mediani mandati nel sud in occasione di elezioni. È tutto un quadro di un tempo che chi non ha vissuto questi anni, come io stesso non ho vissuto, stenta a ricostruire emotivamente il partito di partecipazione, ma che ci danno questi funzionari del partito che viene giù nell'intersezione dei contadini del sud per insegnare la verità del movimento operaio. Questo limite, secondo questo è il limite secondo del mattino dell'operazione di politica culturale che con buona probabilità a mio avviso di appunto porto la mia interpretazione hanno da un lato diciamo caratterizzato le posizioni di De Martino, dall'altra hanno fatto finire in un archivio e non più immesso in grandi vitali di quello che in quegli anni si chiamava la lotta di classe, il movimento contadino del sud. Ora non è di questo poi che potrei parlare. Se anche la posizione di De Martino lascia adito a 50 anni e ora anzi quanti più di 50 anni di distanza a varie perplessità. In fondo la sua scelta sarebbe stata per studiare la cultura contadina, contadina del sud, come cultura immersa nel cattolicesimo meridionale, fortemente radicata nel cattolicesimo e attraversata dalle contraddizioni stesse, egemonia, subalternità, mediazioni, magia, religione, che fanno il, secondo lui, il cattolicesimo del sud. È curioso, forse qui un nodo che ci portiamo dietro da risolvere, è curioso che la ricerca partecipata non sia stata considerata come parte di questa storia culturale. Questa tradizione di lotta, di dichiarazione della propria miseria, e questa dichiarazione di lotta che poi, su cui poi avrebbe lavorato la sua riflessione temporanea, molto ristretta sul folklore progressivo, non viene, a mio avviso, sufficientemente elaborata nei termini in cui invece De Martino avrebbe elaborato e portato avanti quella che oggi è rappresentata da questo grande eredità, cioè la riflessione sul sacro, sulle modalità attraverso cui tecniche, diciamo, usando il suo linguaggio, la miseria si crede di riscattare la miseria che attraversa la vita del, anche del contadino, passando attraverso la soluzione magico-religiosa. Rimane un'ambiguità che è anche l'ambiguità però della nostra storia di oggi, non sussumere sufficientemente il cattolicesimo a uno sguardo politico che guardi anche i rapporti del perché non sia avvenuta questa saldatura tra movimento contadino che saluta con un pugno chiuso, cioè la saldatura, questa problematizzazione tra movimento del contadino che studia sotto pugno chiuso, lo stesso contadino che poi va in chiesa alla domenica. Ecco, questo nodo da comprendere, che non riguarda solo il contadino, ma che attraverso contadini, a mio avviso, tutta la cultura italiana, ce lo portiamo dietro ancora oggi da risolvere. Io mi fermo qui perché non avrei altre considerazioni per il momento da fare. Grazie. Allora, ringraziamo la Catalini che ha fatto quello che si chiama un bellissimo volume, no? Perché praticamente ha fatto l'intervento che avrebbe dovuto poi nel nuovo nel pomeriggio accogliere uno dei materiali presi direttamente da scritti Ernesto Martino. Ma la seconda cosa benissimo. dei normali anch'io feci valere nei primi anni 50. Poi il trattamento più o meno diretto su quella prospettiva, che in quella prospettiva fece nel 1936, con la distinzione tra il folklore di protesta e il folklore come protesta, sulla parte già più volte dichiarato rifiuto di sordezze né cranciate né grammatiane, quale quella del folklore come riporta i simboli, e infine le altre considerazioni del 2005, suscitate tra l'altro dalla scoperta che era un po' sorellata, che già sapeva camminando del mattino subito dopo la morte, aveva protestato che criminava allora il direttore dell'unità per l'articolo del 26 giugno 1951 replicato come suoi diversi che la mattina recava come esempio di folklore progressivo. Per rispondere al testo della mattina, per il DM, la memoria riporterebbe innanzitutto alla lunghezza del suo ascoltatuto che con la formazione di Gianni scrisse nel 1966, poi grammata fino al 1976 quando Bernardi la salvò, con due successive interessate ma escluso dall'archivio del sito. Scusa? No. Come va? Mi permette da ricercare il rapporto che invece istituiva tra filologia e impegno, rapporto che in processo di azione da Trivenia arriva anche nella vita delle iniziative già dell'edizione del campo dell'opera civile e quello dell'istituto, e forse tenderei, lo avrei presentato questa cosa, un profilo storico migliorato degli strumenti di lavoro per i quali curare in un poco la scelta degli archivi del mondo popolare, finiti dove ormai se fosse un determinato delle persone finiti. E mi apparrebbe del buon lavoro di Scarpa che sta conducendo in archivi e cartesi, adesso scusate tranquillo, ma non le panelli, per i suoi studi sull'opera di Gianni Bove che viene a porto con lui. Questo è il nuovo ricordo che così mi incontro sono oggi in grado di dire. Ma certamente le relazioni di quanto di tanto le tratteranno, con convenienza ancora c'è maggiore della mia. Quanto meno dopo la celebrazione dei 90 anni di Vittorio Raffernacchi e dei 100 anni di Cruz delle Sclerosi, quanto si dice, cui ho dedicato gli ultimi tre mesi, forse cercherò di dar corpo alle schede di indicazioni che mi sono presentate, come anche dei fatti di ospitalità e anche del loro sito, sempre che naturalmente non mi lasci del tutto il normale campo delle piante di città. Cercherò di entrare nel dentro e di immaginarci dentro. mostra che uno dei grandi nomi dell'antropologia italiana non è ancora un eco, un qualcosa di culturale, ma è dentro una rinosa comunità che è una sommata marginale. Questa cosa è interessante sottolineare, siamo sempre subalterni, non i termini che Gramsci analizzava nelle sue note sul folklore. E l'altra connessione curiosa invece è quella con Claude Lévi-Strauss, che sta per festeggiare, sono entrambi insieme nel Sagittario, come è passato da poco, pare che il 27 novembre, un altro del 1 dicembre, forse la mattina, 8 dicembre. E Lévi-Strauss è evidente perché appunto significa che ha molto parte, so che non è più in grado di intendere bene, eccetera, eccetera. Alcuni anni fa, quando l'Università di Firenze gli diede il compito di invitarlo a venire a prendere una laurea economica a Firenze, lui gli rispose, credo, di suo pugno in compagna, alla sera un po' a carica, dicendo che era un po' di tempo che non viaggiava più, che non poteva fare un po' di relativa, molto l'onore che gli veniva fatto proponendo di questa cosa. E quindi uno vivente e l'altro morto nel 65. Anche in termini di storia degli studi, questo determina dei paesaggi particolari. Io ho sempre cercato di immaginare cosa sarebbe stato se Bernardino non fosse morto nel 65. Forse sarei morto io, nel senso che le veriti tra il Bernardino cinese e Bernardino sarebbero stati così epocali che non sarei ma non è tanto questo, quanto appunto per il peso che Bernardino ha avuto nella cultura intellettuale, antropologica di quegli anni, e credo che appunto invece nella cultura antropologica degli anni successivi è stato piuttosto rilevante, e quindi immaginare la continuazione di termini come quelli di Lévi-Strauss, diciamo, da tante possibilità. Una delle tante cose che avrebbe legato il punto per essere candidato di leggere da poco un litigio tra gli eredi Basaglia e Gervis, che sono Gervis nel sud con Bernardino, non avrebbe tante possibilità già di questa, mi capita di mediare con la piattaforma cinese, anche di verificare i giochi di contraddizione verso la propria storia. Ma intanto mi sembra interessante pensare il 1908, no? Che è già una cosa piuttosto difficile, che Bernardino bambino, una nascita, una storia diciamo ambientata nella capitale del regno delle Sicilie, del Napoli, che ha poi un destino che in qualche modo compie un percorso dentro quell'universo e che si fa nazionale. Nel Bernardino bambino che conosce la prima guerra mondiale, e un percorso che poi, diciamo, forse quello che abbiamo conosciuto del Bernardino prima del 1941, di naturalismo, storicismo, dell'etnologia, cultura italiana di quegli anni, lì è morto un altro grande testimone, che però aveva due anni meno, soprattutto il Vittorio Foa. Per me è un pezzo anche della mia storia, perché io ho aderito al Sindaco del 1965 e diciamo io ho subito aderito alla corrente di sinistra di quell'Italia, che normalmente fa così per tutti i partiti in cui sono transitato, perché aveva come punti di riferimento Basso Poi e Bertini, che è una specie di trier che deriva da delle esperienze diverse, ma certamente Poi era quello più grande a una cultura delle città moderne, del proletariato, ma anche però una cultura da partito d'azione, libera nel senso più radicale, è stato uno di quei mesi quindi intellettuali che io ho sempre trovato un po' punto di riferimento per il fatto che lui quando un'epoca cambiava opinione e idee, non era di quelli dei secoli fedeli, io mi sono sempre sentito dalla parte di quelli che cacciano opinione. E pensare il Novecento come era vissuto Foa forse ci aiuta anche a pensare, ecco, che il Novecento transitato dal verso del Martino di un'Italia, ecco, non il calcio, ma il movimento antifascista e il movimento di pensiero, ci sono tanti che accomunano, diciamo, i giovani della cultura degli anni 30, in cui diciamo, per cominciare a esprimere una posizione. Poi io l'ho conosciuto delle religioni del 63, forse non ho avuto un'immagine molto forte. Sentì la sua conferenza proprio sui temi della terra del rimorso, non ha convinto, perché pur avendo in sostanza dei tribunali e convinto di sapere già tutto su questi argomenti, e siccome anche era arrivato lì a dire io vorrei che interessavo che la repressione sessuale fosse l'unica esperienza che fosse, non sapeva assolutamente nulla delle trattate del sud, della Puglia, eccetera, eccetera, ma insomma avevo, diciamo, già preesistenti opinioni sull'argomento. E quindi, in un certo senso, pensando agli anni trentani, della prima non è stato il influente della mia formazione, è stato più influente di Clara Gardini, perché Clara ha fatto studiare l'Occidente del terzo mondo, la prova sociale di Morsi, e nel mio panorama, che sono lavorato su Fanon, questi sono stati davvero questi vicini. Ecco, invece, nel mattino è stato un po' un ritorno, e io lo leggo infatti al 75, che è l'anno del decennale della sua morte, perché nel 75, proprio qui a Firenze, all'Istituto Gramsci, facevo un'iniziativa che mi è stata proprio ieri ricordata da Elio Valgari, che ha ritrovato i nastri e i documenti di quei documenti che ho conservato a casa mia, perché mi sono recuperato questo biglietto di quello di Vento Celeste, che sicuramente almeno per mani possiede. È stato per me, diciamo, una miscela delle fotografie l'entrata del mattino della mia formazione di antropologo, perché allora ero già un antropologo, era passato un po' di tempo dalle mie ricerche precedenti con l'antropologia, quindi questo incontro con il mattino fu però dal mio punto di vista, e forse anche da quello di Pasquini, per Mario, Solina, se compartecipavano al progetto, soprattutto l'incontro con il mattino del folklore progressivo, un po' tenente caratterizzato da quella impronta, e mi sono riviso ieri con estrema curiosità e gusto la relazione scritta di Cesare Bermani, che è un misto di storia orale e di riflessione da lontano, ed è centrata praticamente su alcune trascrizioni da nastro, in particolare di Michele Straniero, che una volta pranza o cena in Ernesto Martino, che vengono tenere fuori una diversità del tempo, che non è quello del 75, ma è quello della cena, e siamo negli anni 50, probabilmente fine anni 50, che dà un grande risalto a questa immagine, diciamo, di Martino, che si avvicina fortemente alla cultura dei gruppi locali, alla cultura delle forme di organizzazione di cultura, che diciamo metterebbe un po', come diceva Clara Gardini, per un'inchiesta fatta nell'area locale, di avere una maggiore consistenza per restituire a questa dimensione forse una maggiore ricchezza dentro l'episodio, dentro il vincente di questo momento. Dico questo anche, diciamo, per criticare in maniera autocritica, perché questo mio approccio al folklore progressivo di Ernesto De Martino meritò un giusto bacchettamento da parte mia di un altro De Martino, anche il Saro, Placido Pierchi, che in sostanza disse che le note regionali gancianti De Martino non rappresentavano affatto De Martino, che non era un regionalista, non era un gancciano, era uno studioso di argomenti teorici molto consistenti, che faceva i conti con Heidegger, che era cultura europea, eccetera, eccetera. Collega al fine del mondo, si rende conto di quali sono i materiali su cui Bernardino, almeno negli ultimi anni, andava lavorando, ma anche in tutte le altre opere. Non a caso, il mondo magico fu presto adorato da soli e da casa, essendo un dibattito intellettuale più generale. E quindi, effettivamente, ammisi che quell'episodio a me, diciamo, grazie moltissimo per il fatto che negli anni 70, dentro e fuori l'università, siamo negli anni 70, quando diciamo adesso vuol dire che sono anni ancora di fervore, di cultura locale, di protagonismo e così via, tornare a Martino significava anche dare un orizzonte intellettuale a movimenti che esistevano. Adesso, ad esempio, l'inchiesta che abbiamo fatto con un contributo della regione toscana sugli archivi orali, possono dire che gli archivi orali sono nati esperati, non ci accorgevamo di quanto era diverso, quanto era il cambiamento di transizione. E quindi le tornate in questo convinta da riferimento a quell'ambito di operazioni di pensiero, di politicizzazione, oggi non facile da verificare e esposto. Quindi per me è stato negli anni successivi che De Martino ne parla a fare parte più sistematicamente del mio bagaglio intellettuale, quindi è sempre giusto comprendere le misure della propria vicenda, della propria storia. Negli anni 80, ad esempio, ho scritto un saggetto molto grande in cui trattavo male questo De Martino per la etnografia piuttosto scadente della sua terra, della sua morte e pianto rituale. Io penso che, diciamo, che se De Martino fosse trattato dal punto di vista della puntualità del mondo, perché fosse fare i libri che si potrebbero fare ai suoi studi, ma devo anche dire che la pubblicazione degli inediti arricchisce molto il quadro, anche il modo di comprendere meglio il rapporto tra le tradizioni popolari e diciamo le tecnologie, come De Martino ma permette in qualche modo la dipendenza da certi modelli. L'inchiesta tecnologica che De Martino faceva, mentre al tempo stesso aveva una certa sufficienza di fare la finisce sul territorio popolare, insegnandole intanto nel vero prima De Martino, nella posizione un po' culturistica del secolo scorso. Quindi anche qui il panorama è interessante e ancora secondo me molto, molto aperto, ma forse per me poi il De Martino ulteriore è stato il De Martino appunto dei diritti. I primi inediti, quindi la fine del mondo, ma mi hanno colpito molto anche le pubblicazioni ultime fatte dall'Istituto del Latino, perché mostrano un paesaggio sempre un pochino in incremento, una ricchezza, anche le cose che parlano lì sugli archivi dei martiniani, che sono ora, no? Le martiniani morte nel 65, e che quindi questa idea di poter continuare a pensare quasi a tutti. Probabilmente se fossimo in tanti dovremmo specializzare gli antropologi dell'archivio, no? Per accelerare la possibilità di produrre questa dimensione conoscitiva che ci sfugge e la ricchezza in sostanza del futuro. E quindi a me pare che probabilmente, diciamo, la piena consapevolezza del ruolo teorico del Martino al tempo stesso dialogante con il tema delle patrie culturali, col tema dell'appaesamento, col tema dell'apocalissi e della fine del mondo atomica, sono temi grandi che hanno ridato la sua ultima riflessione, e detto proprio forse che il congiungimento con il Martino ha tutto campo negli anni 90 intorno ad alcune occasioni, prima che anche al numero speciale del ricerca proprio, poi anche poi al convegno della fine di un anno che non ci posso che anni era, non ho avuto modo di documentarmi. E quindi devo dire che è abbastanza recente alla fine questa consapevolezza, e che questa consapevolezza però fa sì che oggi, guardando all'indietro nella storia degli studi, non nella mia storia, perché come avete visto, diciamo così, adesso con De Martino è abbastanza attrattivo, diciamo che la mia impostazione iniziale è stata più vicina all'antropologia marxista, e poi si è un po' recitata e voluta, e io ad esempio ho ritrovato fortissimamente il ruolo del martiniano nella mia lettura dell'antropologia interpretativa americana, cosa sulla quale molto di poi non sentivo mi ha veramente criticato, battettato, ma diciamo uno matura delle connessioni della propria immaginazione, delle proprie prospettive, delle quali mi sono degli anni 80, primi anni 90, tratta degli Stati Uniti, come quando è stato detto a Gramsci, che non viene solo dagli Stati Uniti, ma anche dall'India, questo ritorno, sono i giri più lunghi per tornare a casa, in cui parlano degli antropologi che anche un po' paradossali, diciamo, si è maggiormente radicato nella mia consapevolezza, la mia consapevolezza di antropologia, a diventare una sorta di, come si potrebbe dire, di andate un pochino, per degli aspetti che hanno a che fare con la problematicità del suo pensiero, il suo bisogno di affrontare il presente, come il tema dell'antropologia, la sua capacità di spaziare tra filosofia e letteratura, non ridurre l'antropologia nell'angolo del tecnicismo, e non certo un autore dell'etnografia, anche se io ad esempio non leggo il suo, trovo ancora appassionante leggere la critica metodologica che Martino Fai, l'industria civile dell'etnologia alla scuola tedesca, che la mia generazione non ha neanche letto, è stata un po' scontato, forse superata, e agli suggerimenti di metodologie di tipo storico-culturale di Martino Fai, che poi si ritrovano nelle sue opere, questo mi sembra un appunto interessante da sviluppare, perché diciamo in ambiti metodologici alcuni suggerimenti ci sono del Martino, che certo non vengono dalla tradizione che aveva i grandi finanziamenti per fare le ricerche sul campo, che si è specializzata in quel tipo di produzione. Ecco, attraverso questo processo anche di gestione e elaborazione, appunto io ho finito anche per avere una analogia in cui, avendo scelto il Martino come uno dei padri, mi trovo ad avere due padri, perché di fatto il mio padre effettivo era cinese nella storia della mia formazione, e lo è stato in tutti i sensi, perché mi ha insegnato a scrivere, a fare copertine di pagina, a discutere, molte cose non ho mai imparato da lui, come quello di discutere giorno notte senza mai spegnere e staccare. Io sono uno di quelli che spiega in continuazione perché l'istruttoria mi dà, invece lui ha sempre avuto una passione per discutere della vita quotidiana tutti i grandi temi che affrontava, non ho mai seguito nella direzione dell'universalismo e della logica, però ciò nonostante ho imparato un sacco di cose che sono qui la professione, insomma, come si fa lezione, come si parla, come si scrive, eccetera, eccetera, trovare ad avere, come dire, come le figure mitiche, qui c'è un animale con due teste, come faccio a coesistere nella mia testa, ci rende questo risultato. Nella mia memoria, tra l'altro, c'è un mio amico che è l'Italia, che doveva laurearsi con Ernesto De Martino sui canti popolari sardi, che aveva come correttore al presidente del Consiglio Mario Leato, che è una figura giovane della mia genealogia vicina, in questo senso. Però probabilmente questo mostra anche che c'è una possibile interconnessione, questo certo non è l'oggetto della mia riflessione ora, ma appunto ricordare la nascita e anche indicare la fecondità che questa nascita porta in generazioni successive, no? Indicare come è stata feconda per l'antropologia italiana questa nascita. Qualche volta De Martino è stato anche oggetto di un eccesso di dogmatismo, negli anni 70 ad esempio io lo ricordo così, perché praticamente chi in Italia faceva l'inglese veniva criticato di trascurare proprio De Martino, e quindi forse usare De Martino come un tratto comune di una generazione di intellettuali e di studiosi è stato anche non aprire più largamente la tradizione italiana ad un voli più larghi. Ma nel lungo periodo, diciamo, la sua influenza è stata, a mio avviso, mancante, positiva, assolutamente positiva, e specificizzante, ecco, la vicenda particolare della antropologia italiana. E quindi ci lascia un quadro che veramente un po' così è difficile pensare senza. E quindi questo è poi il discorso del pensare alla nascita, di pensare il tempo trascorso, di pensare la durata anche dell'assenza del Martino da questa scelta. Ecco, io penso che una volta mi capitò con Leonardo Piacere di fare il correlatore olandese in cui si parlava del tarantismo e erano esaminati tutti gli studiosi, trovano tutti l'essenza del Martino. E io ho detto di riorientamento percettivo, no? Come se improvvisamente uno ha in piazza di farmacia ha tolto il suo palazzo comunale, no? Sì, una cosa di storia, di orientamento. sicurissimo che la trama del 900 e adesso del mattino sarebbe un'esperienza che mostra da un lato che diciamo perderemo in termini di originalità, di dimensione, di lunghezza delle generazioni, di discussione, dibattito, criticità, attenzione alla contemporaneità. Dall'altro probabilmente vedremo certi altri fenomeni lunghi che vengono dall'Ottocento, che hanno altro tipo di influenze. Sarebbe un'operazione interessante e è un po' un peccato che il Martino non sia stato monumentalizzato dalla cultura italiana, ma solo dal mondo, per cui questa operazione di toglierlo dalla scena della storia a noi risulterebbe diciamo così interessante e illustrativa, ad altri praticamente inessenziale. E questo torna adesso al discorso della marginalità dell'antropologia. Penso che in fondo noi dobbiamo insistere su questi centenari fino a che prima o poi, almeno per il bicentenario, il Martino sia riconosciuto dalla Commissione Nazionale di Sviluppo dei Centenari. Con l'istituto abbiamo pensato anche anzi con i tempi che io e prima andiamo in incontro, diciamo, di provare a mettere in considerazione stessa e contare un lavoro che comporta un modello, ora qui c'è l'università, quindi non tiro indietro, però abbiamo provato a fare noi su Valderno, come diceva il professor Clemente, di archiviazione e memoria di quelli che sono appunto documenti, testimonianze dell'associazionismo toscano, perché io sono preparata su 136 anni, perché comunque la nostra professore ha da un po' di tempo provato a mettere in piedi un centro studi archivio appunto con la modestia, senza nessun tipo di presunzione, però insomma, come il mondo saprà, molto importante, molto interessante, soprattutto da conservare e da studiare. E questo mi serviva, insomma, qui anche per provare a vedere se anche in questa occasione, diciamo, siamo distinti vicini, ma si prova a fare questa cosa. Io parlo degli oggi, sentito anche l'intervento appunto di Renati e su tutta la questione dei musei, in memoria c'è tutta questa partita che è quella legata alla storia del movimento operario nelle nostre realtà, che appunto con grande fatica, anche colpa principalmente di chi lo dovrebbe fare, in questo caso non possiamo nemmeno accusare di fatto le istituzioni, se facciamo però ha necessità assoluta di essere minimo conservata, meglio diciamo così studiata e poi di essere consultata, perché effettivamente noi abbiamo, in realtà nella piccola opera abbiamo, noi abbiamo qualche tesi di laurea e abbiamo comunque una piccola presentazione in cui non sta prendendo nessuno e questa cosa c'è. Allora, la riflessione che abbiamo fatto è come appunto un lavoro che l'istituto ha fatto, come in particolare appunto la Santa Iva, però può darci una mano, sapendo, e così da quello che può mangiare velocemente, che quando si fa la colonna sonora è una cosa centrale, cioè in pratica quando si parla appunto di questo tipo di lavoro c'è anche gli anni. Per me di colonna sonora così che la scrive assolutamente questa, né oggi. Oggi tra l'altro, e continuo a parlare dell'istituto, credo che qui non voglio mai cercare come si fanno altri, dandosi un obiettivo quello di una continuità, no, del valore di quel lavoro, non dico che parola progressivo ma di quello che non faccio. Quella diciamo si innalza le parole e si fa positiva, no? Di oggi faccio questa domanda che non può essere quella da appunto, però cosa farebbe oggi un attimino, ecco, questa è un po' da maturo, lo so, però è la domanda invece per partire con i miei strumenti che oggi, per esempio l'arci, forse io dovrei fare, oggi, in Italia di oggi, dove comunque l'arci, l'associazione del creativo culturale, dove io sempre con l'Italia del creativo culturale, hanno fatto altri, sono quelli che hanno vinto, poi loro hanno vinto facendo il creativo culturale. E quindi sento su di me, chiudo su questo, perché io mi avuto una bella responsabilità, una grande responsabilità, non me ne faccio, io su quello che facciamo noi, dovremmo fare noi, siamo comunque quelli dell'ACI più forte d'Italia, ma non è quello che è il Milano, non so chi metterà questo. L'ACI è stata la più forte d'Italia, le ACI comunque più alto numero di strutture associative, sono ancora 290 i luoghi che si avviano all'ACI, che è, però poi alla fine evidentemente questo non è più il creativo culturale positivo di cui io volevo invece volevo portare avanti. Quindi so che quello che ho detto diretto, diciamo, per costruire questo progetto pilota. Io ero visto appunto nel testimoniale che sono saluto, che sta avvicinato, visto che la parola la volevo prendere, sono un po' quelli di Brescia che sono venuti mentre ascoltavo queste riflessioni su questa figura sul lavoro appunto di allora, pensando nell'oggi. So che non sarà tema di discussione, ma è tema di discussione dell'istituto, del futuro anche dell'istituto, di quello che si deve fare. Noi si è pensato, proviamo a cominciare a fare un po' di parte insieme e vediamo se riesce a produrre qualcosa. Per questo ecco, siamo qui, poi stiamo facendo un contatto di tutto scientifico, non abbiamo portato su quello che speriamo. Allora, va bene, chiudo tutti gli altri. Qualcosa che ho discusso con Enrico con Francesca, quando ci si pone rispetto a questi tipi di cose che detto lei, ci si mette davanti all'università, alla carriera, alla cultura, sempre davanti, forti della nostra ignoranza, forti della nostra mancanza di conoscenza, ma affinché poi gli altri ci inseguono per darci i commenti che cominciano ad essere utili. Ma perché se no se ci mettiamo a prendere degli elementi della testa, la cosa si ferma lì e questo non mi piace molto. Per quello che riguarda, io faccio recentemente, non so perché non ha voglio parlare, credo di sì, questa esperienza, la grande manifestazione a Roma di 300, 400, 275. Ecco, lì, per esempio, sicuramente uno potrebbe dire 250.000 persone che marciano a Roma per una civica unita, ma è un bel fatto così passato, perché è davvero un accidente che sono viene ignorante e che sono va bene. Di soccorso progressivo. Se dopo un intervento della manifestazione del mese, ma come ha fatto io, e si era fatta nel bene per come era strutturata, e poi è incidente che ha fatto in contatto a chi l'ha detto, diciamo che è un fenomeno progressivo. Perché, come ho detto, nel foro, lì, una massa, una grande massa, non significa unità. È un altro discorso. L'unità della sinistra, diciamo, è sempre una cosa di più. Cioè, bisogna andare oltre al fatto di fare una grande manifestazione, dove però con gli italiani stanno chiedendo da lì avanti, e siccome noi di ricordazione ci hanno fatto un unico, una sola, il suo presidio, e poi c'era quelli che io amo di più, perché io avevo durato per una vita di tanti giorni, una ora di scelta del C, diciamo, della sinistra, più o meno la tenere, non è eccetera, eccetera, eccetera. E quindi questo è un po' il problema che secondo me ci abbiamo di nuovo. La situazione dell'istituto non è stata raccontata, l'istituto sta riuscendo fino a sapersi che sono il presidente di quell'istituto, ma forse ci stanno prendendo per parlare oggi pomeriggio di quelli che sono qui adesso. Auguro a tutti buona appetito e ci vediamo alle 20.